ringrazio per avermi offerto il tuo sguardo a cielo aperto, profumato di poesia, di tua musica, di tua magia, lasciato nelle paludi gli orizzonti, quelli cupi, di inondarmi di tua presenza, anche quando tutto è assenza. Ti ringrazio della rugiada che hai lasciato nella mia strada, acceso il fuoco dell'innocenza, liberato l'animo di ogni indecenza, illuminato le stelle del giorno, del mio deserto tu ne hai fatto un sogno, compagna di un viaggio eterno, restami accanto, restami dentro, per te canta la notte e la luna, e nel sole ogni alba risuona. Nelle strade si inchinano anche i fiori, al tuo passaggio, regina dei miei cuori. Ti ringrazio per avermi offerto le tue labbra, un libro aperto, la tua lingua che ci lega all'immenso, i tuoi occhi di un colore profondo. Ti ringrazio della rugiada che hai lasciato nella mia strada, acceso il fuoco della mia innocenza, liberato l'animo di ogni indecenza, illuminato le stelle del giorno, del mio deserto tu ne hai fatto un sogno, compagna di un viaggio eterno, restami accanto, restami dentro. Per te canta la notte e la luna, e nel sole ogni alba risuona. Nelle strade si inchinano anche i fiori, al tuo passaggio, regina dei miei cuori. Ti ringrazio per avermi offerto il tuo firmamento, il tuo sguardo, tutto il tuo mondo, profumo del fumato di poesia, dato alla musica tutto il suo canto, conquistato senza colpo ferire, senza retorica né stupide parole. Ti ringrazio dei tuoi campi di grano, con te accanto migliore è il destino. Ti ringrazio per avere abbracciato con il cuore il mio cuore perduto. Ti ringrazio per aver trasformato i miei incubi in uno splendido prato. Ti ringrazio della rugiada che hai lasciato nella mia strada, acceso il fuoco della mia innocenza, liberato l'animo di ogni indecenza, illuminato le stelle del giorno, del mio deserto tu ne hai fatto un sogno, compagna di un viaggio eterno, restami accanto, restami dentro. Per te canta la notte e la luna, e nel sole ogni alba risuona.